che un sorno può la tua corona la cerca te persegue la luce assì noi patria del mondo ho cercato mio figlio e t'ho creduto morto tu pianta padre e bacio questa mano sante o figlio senza regno e fuggente una voce sentì che mi diceva vieni con me sarò tua guida era lì Perché tanta angoscia hai diviso?

parmigiana Cora nero, un cammino son più chiare delle divini volendo Ferro, bronzo, muro, roccia Tino, schinata, tua capoccia Son venturi delle divini volendo Dove va salutando ti Barca i monti, dalle flutti Dalla larga, dalle divini volendo Thank you. Oh, sono anni che le nostre feste si riducono a gioie come queste. Ma tu te dico le novinelli e giù teste, e giù teste, e giù teste. L'anno del comodo non sei, ma del cane fu. Yeah. e l'indiano gemmato sagarica, quando è chi come campanelli, amore chiese fu del capitano, e i princi dei kirghisi, uccisi, uccisi, uccisi, e il tartaro dall'arco di sei comiti, i ricchi e felici, e decapita, uccidi, ammazza, uccidi, ammazza, uccidi, ammazza. Thank you. Si compio il tuo desiderio. tale c'è questa. Turandot la pura sposa sarà di chi di sangue regio spieghi gli enigmi che la proporrà. Ma chi affronta il cimento e vinto resta, forgia la scure, la superba testa. si sia fretta, se sogno con questa bamba fretta, ho una voce che trepido qua sforte, ed è tramonto il brivido. Non perdersi, straniero! Il mio nome. distillando nelle vie di Pechino ad ogni porta batte la morte e grida il nome, il nome fino del tuo sangue. Amore, da me tu che vuoi, di tu che vuoi, di tu che vuoi, è l'amore che cerchi, tu che vuoi, di tu che vuoi. Oh, quel nome? Quel nome? La posseva, vede per loro, ma venire non può. Perché gridi? Lasciatela! Principessa, ascoltami. Seguirò per

今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。